Radio 24. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buongiorno, buon pomeriggio anche questo sabato, come sempre, come tutti i sabati, siamo qui. Io sono Leonardo Manera e qui nello studio di Radio 24, seduto comodamente accanto a me, in un ozio non creativo, devo dire, perché c'è l'ozio creativo e l'ozio non creativo. In questo caso, immerso in un ozio non creativo, c'è Daniele Ceva. Buongiorno Ceva. Buongiorno Manera, come stiamo? Ma io sto abbastanza bene. Ceva invece arriva qui, beve il caffè, si fa offrire il caffè, poi ci prova con delle stagiste che sono qui, no, in giro a Radio 24. Sono impegnato, potrebbe evitare di raccontare. No, è vero, Daniele Ceva è impegnato, non ci prova con le stagiste, ci prova solo con il nostro curatore Guido Scotti. Così va già meglio. Così va meglio, e noi siamo qui per commentare delle notizie che troviamo in giro sui giornali oppure in rete, e adesso ci avviamo ormai sempre di più verso l'estate, fa molto caldo di pomeriggio qui a Milano e si comincia, come faceva, a bere. Si beve. Sì. Allora, vabbè, sì, io bevo, ogni tanto mi piace bere con gli amici, in compagnia. No, io l'ho vista bere da solo. No, al parco. Da un sacchetto di carta, si mette... Aveva questo sacchetto di carte, lo portava alla bocca, dentro immagino ci fosse dell'amaro. No, c'era una bibita, era una bibita dietetica, sai che io mi vergogno a far vedere che bevo bibite dietetiche. Invece questa notizia che invita tutti a bere che cosa? Il vino rosso fermo, perché contro ogni cosa si possa pensare abbiamo questa notizia che dice che un bicchiere di vino vale come un'ora di palestra. Un nuovo studio dimostra che un bicchiere di vino ha gli stessi effetti benefici di un'ora di palestra. Qual è la sostanza che rende possibile questo? Il resveratrolo. Senta, posso dirlo ancora due volte? Sì, perché lei con quella R è la persona ideale per dire resveratrolo. Resveratrolo. Niente, questa sostanza contenuta appunto nel vino rosso. Ma che avrebbe degli effetti benefici. Lei lo sapeva che nel vino rosso c'è il resveratrolo? No, lo so adesso, proprio perché e lo impareranno tantissimi di quelli che ascoltano Avanzi di Manera, che c'è sempre da imparare. Sempre da imparare. Un dosaggio elevato di resveratrolo migliora le prestazioni fisiche, oltre a rinforzare il sistema cardiaco e la resistenza ossea. Quindi invitiamo, cioè, è un programma pro-alcolismo questo, sì, si rende conto che dà delle notizie che sono, cioè, dannose. Beh, insomma, poi ognuno, c'è il libero arbitrio, noi non siamo giansenisti, sai chi erano i giansenisti? No, me lo dica lei. I giansenisti... Erano quelli che bevevano il resveratrolo, i giansenisti. No. I giansenisti sono quelli che pensano che ci sia un destino ineluttabile già deciso al momento della tua nascita. Sì. Cioè sono quelli contro il libero arbitrio. Ho capito, e quindi non quindi si può fare nulla. Quindi lei non può decidere nulla della vita perché è stato tutto deciso all'origine. Bene, quindi io mi declina ogni responsabilità il giansenista. Lui fa delle cose, dice, tanto era già deciso. Era già deciso. Esatto. La sua vita, che lei sarebbe andato a vivere poi a Vermezzo, se non sbaglio, e avrebbe avuto questi problemi che ha avuto di tutti i tipi, insomma, vari. E che un giorno avrei potuto dire resveratrolo. Però, insomma, un buon bicchiere di vino rosso alla fine non fa male. Il problema qual è? Che, se non sbaglio, avevo letto tempo fa che un bicchiere di vino ha circa 400 calorie. Quindi, se da un lato forse il resveratrolo migliora le prestazioni fisiche, rinforza il sistema cardiaco, con resistenza ossea, però poi dall'altro fa venire la pancetta. Quindi non è come un'ora di palestra. Ma la pancetta migliora le prestazioni sessuali, perché nella pancetta... Quello lo dice lei, perché lo dicono tutti gli uomini che ce l'hanno. No, non è vero, io non ce l'ho. E chi mi creda ha la che... pancetta ha un ormone particolare, ne avevamo parlato anche qui, che si chiama estradiolo. Sì, l'estradiolo. Che rallenta i tempi della performance maschile. Quindi il resveratrolo magari ti fa venire un po' di pancetta, però migliora la resistenza cardiaca. In più con la pancetta ti viene l'estradiolo e il rapporto sessuale trova il suo meglio. Ma è più lento semplicemente perché ci vuole più tempo a togliersi i pantaloni con la pancetta. Abbiamo iniziato da pochissimi minuti, abbiamo già detto resveratrolo ed estradiolo. Mente. Allora, diciamo una battuta sugli ubriachi. Ero così ubriaco che l'altra notte sono caduto dal letto e ho mancato il pavimento. Io invece ho smesso di bere quando ho scoperto che pesavo 94 litri. Questa è sua? Questa è la mia, sì. Tra l'altro bevo tanta birra, posso dirne un'altra? Prego. Io bevo talmente tanta birra che una volta l'esame delle urine l'ho portato con un sottobicchiere. Io invece cito una battuta di Flavio Aurelio, noto comico e amico anche. Dice: era un grande bevitore, aveva globuli bianchi, globuli rossi e globuli rosé. Questa carina, questa bellina. Anche quelle di prima facevano ridere, comunque io andrei... Vabbè, basta parlare di vino, perché immagino che voi che ci ascoltate lo berrete stasera nel vostro sabato sera, perché il vino scioglie anche un po' le inibizioni, si esce a cena con la ragazza, si beve un bicchiere di vino, due bicchieri di vino, tre, poi la serata finisce lì. Esatto, perché si diventa molesti e fastidiosi. Come al solito noi facciamo sempre qualche telefonata e per raccogliere i vostri pareri, vediamo com'è andata questa volta. Pronto? Stiamo commentando una notizia... secondo la quale un bicchiere di vino ha gli stessi benefici di un'ora di palestra grazie a questa sostanza che si chiama resveratrolo, che migliorerebbe le prestazioni fisiche. No, non, casa non lo beviamo, solo mio padre qualche volta e basta. Come mai voi non bevete vino perché preferite altre bibite? Sì, acqua. Solo acqua bevete? Sì, sì, sì. Invece sì. Il padre beve ogni tanto vino? Raramente. Grazie. Raramente anche lui. Però come state in famiglia? Problemi ossei? Bene, no, siamo mal bene. Di testa, nevralgia, cefalea? No. Qualche tutto altro problema? Problemi cardiaci? No, tutto a posto. Varici? Tutto a posto. Problemi alle ossa? Devo andare al lavoro, sono in ritardo, mi dispiace ma non posso davvero perdere tempo. È sicura che sta bene? Sì, sto benissimo. Beva un bicchiere di vino prima di andare e vedrà lo che farò, sta bene. Lo farò. E ceda con gli alcolici. Arrivederci. Buon anno. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. Lei beve normalmente vino? No. Come sta fisicamente? Sta bene oppure così così? Benissimo. Ma non pensa che con un po' di vino potrebbe stare meglio? No. Sei sicuro di stare bene? Assolutamente sì. Non ha niente, mal di testa, nevralgia, cefalea, sindrome di Steven Johnson? Sto come un pesce fino ad adesso, se mi tocca un attimino. Ma... Beh, può sempre capitare. Grazie a lei, buongiorno. Ciao. Sì, pronto? Stiamo telefonando da Radio 24. Lei beve ogni tanto un po' di vino? Mia moglie lo beve. Succede se si beve troppo che si fanno delle cose strane. Per esempio quello che è successo a questa persona. Che ha fatto? Allora, questa persona è stata sorpresa. Tra l'altro il video ha fatto il giro del web. A fare sesso con un'auto. Cioè in che modo? Come funzionava? Lei prova a immaginarsi l'auto. Dov'è che inserirebbe, se non nel tubo di scappamento? Ah, proprio nel tubo di scappamento. Immagino. Questo è veramente incredibile. No, così, caro Beniamino, invece è incredibile, però è successo veramente. Qui dice che probabilmente aveva gravi disturbi mentali. Non l'avrebbe mai immaginato. Mai. Tra l'altro la cosa... A lei è mai capitato per mezzo di fermarsi lì con una 127? Sa che io avevo la 127 rustica. Con la quale faceva sesso, con la 127 rustica, che era quella, se non ricordo male, era beige e aveva delle reti che proteggevano i fanali. Era l'antesignano dei fuoristrada, dei sì, piccoli SUV. Perché l'aveva rubata. Aveva i sedili in finta pelle, il volante in finto cuoio, il motore in finto motore. E le chiedeva... E quando superava i 90 all'ora non sentiva il rombo del motore, sentiva il motore che diceva no! Senta, ma lei faceva sesso con questa 127 e in più le chiedeva le coccole alla fine. Pensa che io con quella macchina sono uscito per la prima volta con la ragazza con la macchina, l'ho portata e siccome non avevo l'autoradio mi ero messo la radio a cassette dietro sul sedile posteriore. Che tristezza. La vita è così. Grandissima amarezza perché sì, poi sì, quindi sì, era sì. Io la 127 rustica e questa ragazza che si chiamava che se n'è andata quando si l'ha è messa vista. Con un altro perché lui aveva la moto. Vabbè, ci credo, ma maledetto, ancora rancore verso di lei. Smetta di odio. Ma lei aveva la 127 rustica. Se sì, ma l'ho conto. Portata a cena fuori, l'ho offerto una pizza anche capricciosa, non la margherita che costa meno. Ho detto prendi quello che vuoi e lei ha preso la capricciosa. No, per coerenza doveva pagarle una pizza rustica. Al ristorante Sanssouci di Gardone Riviera, maledetta, ti ho offerto la capricciosa e ti sei messa con quello con la moto, maledetta. Si ricorda anche il nome del ristorante della prima volta. Sanssouci. La notizia è questa: vittima di incidente stradale si sveglia e inizia a parlare cinese fluentemente. Bravo, dai. Il 22enne australiano Ben McMahon, c'è cioè anche qui a Milano via McMahon, è stato vittima di un terribile incidente stradale. Lo ha lasciato in coma questo incidente per una settimana, appeso tra la vita e la morte. Quando si è svegliato, riusciva a parlare cinese, mandarino e nessun'altra lingua. Peraltro la sua padronanza, il cinese era incredibile, tanto che oggi il suo cinese è talmente fluente che è diventato una star della TV cinese. Ha visto? Sa perché mi ha colpito questa notizia? Perché mi fa pensare che forse ci sono davvero delle vite precedenti. Può essere, o degli universi paralleli, ci sono varie teorie che riguardano un po' queste tesi, no, sono teorie che riguardano mondi paralleli, vite precedenti e insomma di vario genere. Perché se uno ha un incidente, batte la testa e poi parla una lingua che non ha mai parlato prima, forse è stata una sua vita precedente in cui era un cinese mandarino. Oppure noi abbiamo dentro tutte le lingue, perché la lingua aspetta, da qualche aspetta, parte aspetta, questa è le teorie di Daniele Ceva. Le interessanti teorie di Daniele Ceva. Allora, qual è questa sua teoria? Noi, ad esempio, un mio insegnante di francese mi disse che noi, meno male, da bambini siamo predisposti a tutte le grammatiche, no? Dopodiché però imparandole una sola e utilizzandole una sola spegniamo un po' le capacità di acquisire col tempo poi tutte le altre grammatiche. Quindi chi lo sa che anche le lingue noi non le possediamo già tutte dentro e semplicemente sviluppiamo quella del luogo in cui nasciamo, cioè nel nostro caso l'italiano. Ma è una teoria che non regge proprio, una teoria che non regge, senza nessun fondamento lei. Scientifico. Cioè, ma noi, chi lo sa? No, noi abbiamo in potenza la possibilità di imparare tutto, ma lei sostiene una cosa assolutamente non plausibile, cioè che noi abbiamo già tutte le lingue dentro. Ma può darsi che questo fatto qui, tra l'altro, anche volgare, la testa, è volgare. Ma non è volgare, cosa c'entra? Dire che lei ha dentro tutte le lingue non è bello. L'hai pensa subito alle lingue inserite in quella maniera lì, no. Allora, invece ci sono anche delle battute sugli incidenti. Questa è di Marcello Marchesi, che è un noto umorista, autore anche televisivo di tanti varietà italiani dagli anni 70. Allora, la notizia giornalistica: giovane si schianta contro un lampione, spenti entrambi. Un tizio in Ferrari sbatte contro un muro. Oddio, il Ferrari, un signore di vicino che ha assistito all'incidente, ma guardi che le manca un braccio. Il tizio: oddio, il Rolex. Va bene, prima di finire questa prima parte abbiamo i nostri scherzi telefonici venuti male. Scherzi telefonici, scherzi telefonici venuti male. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maurizio Costanzo. Stiamo cercando nuovi ospiti per il Maurizio Costanzo Show. Volevamo sapere se lei è interessata a venire come ospite al nuovo Maurizio Costanzo Show in onda su Rete 4. Sappiamo che lei ha avuto una vita importante, piena di episodi che sarebbe interessante raccontare al nostro pubblico. No, mi dispiace, ma non è possibile. Ma guardi, possiamo metterci d'accordo con la nostra redazione, eventualmente la faccio chiamare anche la mia moglie Maria. Vediamo. Ah, aspetti che le passo mio marito. Va bene, lo ringrazio. State buoni. Buoni, buoni. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maurizio Costanzo. Stiamo preparando la nuova edizione in onda su Rete 4 del Maurizio Costanzo Show. Stiamo cercando i nuovi ospiti, vorremmo sapere se sua moglie è interessata a venire, perché sappiamo che sua moglie ha avuto una vita interessante, tante storie, tanti uomini che potrebbero essere interessanti per il nostro show. In realtà è venuto benissimo questo scherzo, Maner. Perché sono un grandissimo. Ci hanno creduto che lei fosse Maurizio Costanzo. Buono, buono. Sono un grandissimo imitatore. Traffico! Consigli per gli acquisti. Avanzi di Manera. La rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, bentornati a Maurizio Costanzo Show. Abbiamo mai sentito sta signora, ecco, abbiamo visto Daniele Ceva, buonasera Maurizio. Questa persona che arriva dal tunnel dell'alcolismo, questo tunnel dell'alcolismo, Ceva, lei era abituato a bere sotto, capito? Allora, andiamo avanti con le notizie. Chi vuol cambiare sesso avrà i costi coperti dell'operazione dal Servizio Sanitario Nazionale in Argentina. Dalla mutua. È giusta secondo lei questa cosa? Ma insomma, non è una malattia. No, non è una malattia, però. Quindi perché lo Stato, cioè perché io pagando, lasciando perdere discorsi di transessuali o meno, cioè non trattandosi di una malattia, se lei volesse trapiantarsi i capelli, cose che le consiglierei tra l'altro, perché dovrebbe pagare lo Servizio Sanitario Nazionale? Io sono d'accordo, anche perché per esempio dice che avere un organo sessuale che non si desidera può darti problemi psicologici, però anche non avere i capelli può causare problemi psicologici, è giusto. Anche non essere alti 2,20 metri può causare problemi psicologici. 12. Lei allora sarebbe contento, potrebbe finalmente cambiare sesso. Finalmente troverei la mia vera inclinazione, la mia vera natura. Battute sui transessuali. L'infermiera dice: ma perché signor Mario vuole farsi operare per cambiare sesso? E il signor Mario: ho sentito che le donne vivono più a lungo. Molto bella. Bellissima. Proviamo a mandare una telefonata. Pronto? Noi stiamo commentando questa notizia secondo cui in Argentina chi vuole cambiare sesso può farlo gratuitamente, cioè una donna può diventare uomo. Se parla con mio figlio allora. Perché suo figlio è transessuale? Non so. Adesso glielo passo, parli lei. Pronto, buongiorno. Buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 ore. Stiamo commentando questa notizia secondo cui in Argentina chi vuole cambiare sesso lo può fare gratuitamente perché i costi sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. E stiamo facendo un piccolo sondaggio per capire se le persone sono d'accordo oppure no. Io penso che dovrebbe pagare il suo. Perché? Perché è una scelta personale che non riguarda lo Stato, secondo il mio punto di vista. Naturalmente è la mia opinione. Hai mai avuto attrazione per un transessuale, per esempio? No, sinceramente, mi piacciono le donne, anche belle. Non si è mai concesso qualche trasgressione, lei? No, assolutamente. Vino, molti alcolici, droghe? No, assolutamente. Non mi drogo, non bevo, non fumo. Tornei di risico? Ho giocato quando avevo 12-13 anni, l'ho provato. Ha smesso perché ha capito che era una forma di perversione. Il risico? Sì. No, ma quando avevo 12-13 anni, insomma, penso che ho giocato una volta o due, ma non ho visto tutta questa perversione. Insomma. Guardava da ragazzi i cataloghi della Postal Market? No. Leggeva Caballero? No. Le Ore? No. Mondo Camion? No. Va bene, abbiamo appurato che lei è una persona assolutamente retta e la ringraziamo della sua testimonianza. Grazie. Prego. Qui abbiamo una notizia che mi ha colpito per l'intensità emotiva che determina. La lega. Sì. E accarezza il volto di suo fratello morto. Come ha fatto? Hanno praticamente scoperchiato la tomba. Hanno fatto una sorta di trapianto di faccia. Uh-huh. A una persona che ce l'aveva deturpata, aveva deturpato il viso in seguito ad un incidente, se non sbaglio, e gli hanno trapiantato il volto di questa persona che era deceduta e che ha donato gli organi, tra cui il volto. La sorella di questo donatore di volto ha visto quest'uomo, ha incontrato quest'uomo al quale era stata applicata la faccia del fratello defunto e finalmente ha potuto riaccarezzare il fratello. Non le fa impressione questa cosa? È un pochino sì, non lo so, bisognerebbe vedere. Tra l'altro è una notizia vera perché insomma arriva dall'ANSA, quindi un'agenzia. Anche perché inventarla sarebbe veramente un'agenzia assolutamente attendibile. Pensate, l'uomo dall'ANSA, non dall'ANSA, dall'ANSA. L'uomo aveva perso il naso, le labbra e la maggior parte dei movimenti della bocca e gli hanno trapiantato completamente una faccia. A me farebbe tantissima impressione questa cosa. Ah! Aveva un cuore di pietra. Dopo aver perso la vita in un incidente, il suo cuore fu trapiantato in una statua, avendo il cuore di pietra. L'ho capita. E la statua è andata avanti tutta la vita con questo cuore di pietra. Questa battuta di Francesco Verrina, umorista calabrese, o Verrina, non lo sappiamo. E invece perché si muore? A volte perché le bollette del gas sono da infarto. Allora, due maxi bollette da infarto per un importo complessivo di oltre 4.000 euro per la fornitura del gas domestico sono pervenute a un'anziana settantenne residente a Conegliano che ha una pensione di 560 euro al mese. Questa poverina ha visto arrivare queste bollette da 4.000 euro e ha avuto un infarto, poveretta. Pensa. La vita è così, Beniamino. Speriamo che tu ce la riesca ad avere la pensione, anche se credo ecco, di no. Io ad esempio le bollette del gas le farei pagare dalla mutua. Ma lei ce l'avrà la pensione? Cioè. Ma io credo di no. Ma anch'io penso che fondo pensione che ce l'ho da anni, ma credo che mi daranno, non so, 20 euro al mese. Uno paga 40 anni di contributi, io adesso ho circa 30 anni di contributi per poterne godere poi di quanti? Di 10? È evidentemente iniquo, o no? A volte magari qualche mese. Per fortuna ci sono le madri che pensano sempre al benessere dei figli. Allora, fino a quanti anni si allatta un figlio? Non so, dipende dai figli. Io sono stato allattato, credo, fino a 8 mesi. Normalmente sono 6-8 mesi. 6-8 mesi? Sai che non lo so. Bene, invece qua abbiamo questa mamma che allatta la figlia di 6 anni e dice no ai vaccini. Il latte materno la protegge, continuerò finché vorrà. Ma io, finché vorrà, ovviamente sì, lei, la figlia. Una volta io ero in aereo, stavo andando a fare una serata in Sicilia e accanto a me c'era questa madre che parlava del figlio, diceva che il figlio aveva 8 anni e lei lo stava ancora allattando. Ma secondo me era il figlio che voleva insomma, toccare un seno. Ma pensi che invece durante una serata c'era una mamma che stava allattando il pargolo finché a un certo punto, quando ha finito di allattarlo, io l'ho invitata comunque a mantenere fuori il seno. A proposito di serate, di spettacoli, qualche anno fa dovevo fare uno spettacolo in una discoteca dalle parti di Varese, mi sembra. Sì. Sono arrivato in discoteca, insomma, la gente arriva tardi, verso le 11 mi dicono: aspetta che è ancora presto, è inutile farlo adesso che c'è ancora poca gente. Poi arriva l'1:30 di notte e il proprietario mi dice: non farlo adesso perché è pieno, stanno ballando, non si può interrompere. Poi la gente ha cominciato ad andare via, alle 3 mi ha detto: sono andati via tutti, niente, non farlo. Mi hanno pagato e sono tornato a casa. Vabbè, meglio così. È stato però 3 ore lì a guardare, sì, il pubblico che andava, ballava e veniva. Questo era il mio aneddoto senza pretese. Aneddoti senza pretese. Va bene, diciamo anche una battuta sulla maternità, sui figli, sul parto. Mio figlio somiglia tanto al padre, dice lei, e l'amica, un pochino però anche a tuo marito. È un classicone, questo qua. Noi siamo addirittura d'arrivo, prima però non possiamo venir meno alla nostra rubrica che è Le idee di Daniele Ceva. Le idee di Daniele Ceva. L'idea di quest'oggi per un nuovo palinsesto ipotetico televisivo, ecco, l'idea è Psicopatici nello spazio. Allora, è un reality. Sì. Allora, è un reality come ce ne sono tanti, ma questo qua rinchiude 12 psicopatici all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Mm. I psicopatici ovviamente in quell'ambiente lì già aumenta l'ansia. Dalla Terra vengono schiacciati dei pulsanti che fanno suonare degli allarmi sulla stazione spaziale. Ovviamente gli psicopatici urlano spaventatissimi e una telecamera che li filma insomma, fa divertire un mondo tutti coloro che guardano Psicopatici nello spazio. Tra l'altro, le botticine di ansiolitici, questi flaconcini di ansiolitici, avranno dei tappi difficilissimi da aprire. Contribuirà tutto ad aumentare l'ansia e le urla di questi. Vediamo la stagista qui in regia che è molto perplessa, quindi non ha neanche ascoltato, si è tappata le orecchie alla sigla. Farebbe riderissimo. Noi vogliamo finire come sempre con un avanzo di poesia, cioè con una poesia non nota che noi rendiamo invece nota al pubblico di Radio 24. Una di quelle allegre che piacciono a lei? L'amore non esiste. Ma chi lo dice? Esiste un battito d'ali lungo come un'emozione breve, breve come un lungo battito di ciglia, finché dell'amore resta il rancore e la rabbia dell'emozione caduta sotto il fardello pesante della realtà. Ma che tristezza. Vogliamo finire sempre con una nota positiva? Cioè, il poeta parte con l'idea, siamo d'accordo che intanto l'amore non esiste, dopodiché ci aggiunge varie cose. L'amore non esiste. Ma bisogna dirlo a tutti quelli che stasera usciranno in cerca del vero amore, sabato sera. L'amore poi, insomma, non esiste. L'amore non esiste. È una notizia questa che diamo in anteprima. L'amore non esiste. Grazie per essere stati con noi invece in questo sabato pomeriggio con Daniele Ceva, con Leonardo Manera, il nostro autore Marco Del Conte, l'ottimo Pietro Lacorte in regia e il curatore Guido Scotti. E a tutti voi, ciao, grazie, con Sabato del Villaggio con Marta Cagnola. Buon fine settimana a tutti. No.